La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Cara Barbara, ho letto che la RAI sta organizzando un reality alla cui ideazione ha partecipato anche Laura Boldrini, presidente della Camera. Si tratterebbe di andare a intervistare quelli che vivono nei campi rifugiati nel sud del Sudan, nel Mali. E chi andrebbe a intervistarli? Albano, Emanuele Filiberto di Savoia, Paola Barale. Persone notoriamente molto preparate sull'argomento. Leggo in rete e condivido. Mi immagino Albano che canta in Mali davanti ai bambini disperati. Cosa ne pensa Gabriele Belpiano? Senti, anch'io ho letto questa notizia e spero che ci sia una clausola segreta, ignota soprattutto ai conduttori e agli ideatori, che alla fine del reality ci sarà una sorpresa, ovvero gli intervistati prenderanno il posto degli intervistatori e quindi il giovane umiliato e offeso del campo profughi cederà il suo posto a Emanuele Filiberto. Andrà a vivere nel suo palazzo con le sue rendite. E la stessa cosa toccherà ad Albano. Il rifugiato che cambierà la sua sorte si prenderà pure i diritti d'autore. Tutto, un cambiamento completo. Ugualmente Paola Barale. La donna con 8 bambini attaccati alle gonne andrà al posto di Paola Barale e Paola Barale invece passerà il resto della sua vita in questo campo profughi. La stessa sorte però, scusate, dimenticavo, anche al direttore di rete, agli autori e all'onorevole Boldrini, che non se lo aspettano. E quando gli faranno questa bella sorpresa, allora, soltanto allora, capiranno la vera portata della loro iniziativa. La capiranno quando scambieranno la loro sorte con quella dei diseredati e degli affamati e avranno una grande occasione di mostrare quanto era sincero il loro interesse. Auguri. La guardiana del faro. Mi ha scritto una lettera molto bella e molto desolata il professor Bellecca dalla Lucania. Sono 2 pagine, ma posso riassumerla in una riga. Nel paese disperato che sta diventando l'Italia non vedo motivi di speranza. E tu? Ma io veramente sì. E te ne posso subito dire 2. Una è il Papa. Un Papa che ha una coscienza evangelica. C'era stato un lampo tanti anni fa con Papa Luciani, ma fu spento subito. E per me, che sono cresciuta nell'incubo di una educazione cattolica dove tutto era peccato, anche respirare, anche ridere, vivere soprattutto. E poi non parliamo di come la repressione della donna cominciasse dalla culla. E mi ricordo da piccola questi confessori morbosi che con le loro domande offendevano il mio pudore. A 8 anni io mi mandavano sempre a confessarmi, ci andavo e mi piaceva un ragazzino. Un certo Gabriele, era bellissimo. Io lo salutavo per strada, era tutto, perché stava in un'altra classe, però sentii il dovere di dirlo al confessore e gli chiesi: senta, ma è peccato? E lui esplose. Ecco, questo era un po', ma senza andare così indietro, in anni abbastanza recenti, pensiamo com'è peggiorata la percezione della diversa inclinazione sessuale con la persecuzione dei gay autorizzata dalle posizioni della Chiesa. Io mi ricordo il sito dei Papa Boys che diceva: l'omosessualità è una malattia e va curata. Signori, senza mezzi termini, l'idea nazista. E quindi non so dire che gioia, che allegria dello spirito sentire le parole di un uomo buono che ha voluto chiamarsi Francesco e che non agita il potere della Chiesa come una minaccia e uno spauracchio e che dice: chi sono io per giudicare un gay? E dice anche che se un uomo non crede in Dio, a Dio non importa, purché sia un galantuomo. Un Papa che si occupa davvero dei migranti, che non fa finta di niente, che non dice vuote parole senza seguito. E dice anche: i conventi sono fatti per accogliere i clandestini e chi ha bisogno, e non per farci degli alberghi da ricchi. Adesso cito a memoria impropriamente, ma il senso è proprio questo. Io ricordo un documentario, credo, della Gabanelli, che strappava il cuore, dove c'erano queste suorine, dagli 80 ai 95 anni, delle vecchine che erano sempre state in questo convento di clausura, un bellissimo convento nel Lazio, non ricordo dove, e che venivano cacciate via perché appunto bisognava farci un albergo. Ecco, il discorso del Papa ha qualcosa di grande nella sua semplicità. Un Papa che si riferisce al Vangelo invece di calpestarlo, come tante volte nei secoli ha fatto la Chiesa. E poi un altro avvenimento, molto più piccolo, ma per me ugualmente grandissimo motivo di speranza. La cavalcata dei ragazzi autistici è avvenuta da poco, attraverso la campagna Umbra, organizzata da Gianluca Nicoletti insieme ad altri genitori. E non si è trattato, come superficialmente si può credere sentendo la notizia, una cavalcata simbolica di un quarto d'ora, una parata. No, no. È stato un viaggio, è stata un'impresa. 6 giorni, con molte ore di cavalcata al giorno. Questi ragazzi, che hanno difficoltà anche ad allacciarsi le scarpe, si sellavano il cavallo da soli. Ragazzi che di solito si ritrovano e si tranquillizzano solo nella ritualità, nella ripetizione, gli orari. Quel cibo non un altro, quell'ambiente, quel luogo non un altro, hanno affrontato l'avventura, hanno guardato i fiumi a cavallo, cosa che molti di noi, me compresa, non farebbero mai, e tutti i loro disturbi frantumati nel tempo dell'impresa. Un'altra cosa, i polli, i tacchini, le oche, i pennuti che di solito fanno loro terrore, ed ecco questi ragazzi nell'aia, pieni di animali di ogni sorta, di scrofe che allattano, di tacchini che razzolano, e loro tranquilli, e mangiano quello che viene. Poi, cosa sembra assai rara, ridono mentre cavalcano e comunicano fra di loro. Non che siano guariti, come dice Nicoletti nel diario di questo viaggio, ma stavano bene, erano felici, erano in un ambiente adatto a loro. E finché ci sono stati, fobie abituali e disturbi spariti. E questo conferma ciò che Gianluca Nicoletti ha scritto nel libro Una notte ho sognato che parlavi, dove parla di Tommy, suo figlio autistico, e del loro rapporto, pubblicato da Mondadori. Scrive Nicoletti: ciò che ammala questi ragazzi è il nostro modo di vivere, l'inciviltà urbana nella quale siamo tutti ormai suicidi volontari. Quasi che questa sindrome, l'autismo, sempre più diffusa, fosse una rivolta antropologica a un modo di vivere insostenibile. E il tentativo di Nicoletti di creare dei luoghi per autistici, con gli alberi, lo spazio, la libertà di movimento, dove vivere secondo natura e non secondo follia, riporta all'idea di Gianluca Nicoletti, espressa anche nel libro, di creare dei luoghi per autistici, con gli alberi, lo spazio, la libertà di movimento, momenti di silenzio, ovvero in una dimensione umana, nella sua dimensione. Ecco, questa cavalcata è qualcosa che si oppone alla stoltezza. Quindi, professor Bellecca, grazie della sua lettera, ma io invece spero, fortissimamente spero, perché Dio ride e mi contagia. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Sono fidanzato da 4 anni con una ragazza bellissima, intelligente, dolce, premurosa, innamorata, paziente. So che aspetti adesso il fatidico però. E in effetti non sono più certo di amarla. Ne abbiamo discusso molte volte. Ci siamo anche lasciati per brevi periodi. Liti furiose, al limite della rottura definitiva. Ma siamo sempre tornati insieme. Abbiamo interessi diversi, ma lei mi viene incontro e anch'io cerco di farlo nei suoi confronti. Il sesso è perfetto. Ti prego, non pensare che io sia l'eterno infelice, che ha tutto eppure si sente mancare sempre dentro qualcosa. Sento di voler innamorarmi di nuovo, di scoprire nuovi modi di essere del mio carattere. Voglio poter esprimere parti di me che oggi sono spente. Lei è molto concreta, anche se dolce. Dice che io razionalizzo l'amore. Teme di non riuscire a completarmi. E così è. Le voglio un grandissimo bene, la stimo. Ma può essere svanito così l'amore, seguendo il solito copione: innamoramento, passione, abitudine, fine? Esiste un amore che non finisce. Aldo 25. Aldo, ti ringrazio per la parte della lettera che naturalmente non leggo, ma che mi ha rallegrata, sai, come nei racconti di Jack London sul Klondike, quando il cercatore d'oro semicongelato vede laggiù un fuoco nella neve, o come nelle fiabe, quando cammina, appare un lumicino lontano. Di solito poi quando si arriva ci abita l'orco per mangiarti. Qui invece un ragazzo perplesso e non vuole mangiare nessuno, anzi è penosamente sazio. Aldo, come tutti quelli che scrivono, la risposta è la tua lettera. Ogni parola dice che è finita, e specialmente quelli di elogio alla lascianda. L'amore o c'è o non c'è. È facile, è semplice. È come essere vivi o essere morti. Mi chiedi, esiste l'amore eterno? Eterna domanda. Ma la parola eterno non si addice alle cose umane. Però a volte l'amore dura quanto la vita. Quando davvero due si incontrano, quando non si pensa mai all'altro perché non è un altro, perché lì con te è compreso nella tua esperienza, gli amori di solito finiscono perché sono statici. C'è un bell'inizio che poi si vorrebbe ripetere, e da lì la catastrofe. Se l'amore non è una creazione continua, diventa un malato cronico e non può che morire. Insomma, tu sei stufo, ma lei ti fa pena e le stai accanto senza amarla. Senti, è veramente una brutta azione. Dai Aldo, adesso non parliamo di te, di cui parli moltissimo. Pensiamo un attimo a lei, pensiamo un istante a lei. Dai Aldo, falle questo regalo, lasciala. Dici che ti piace, che ti è pure simpatica. E allora perché la tieni in ostaggio? L'amore non dipende dalla volontà, ma il rispetto sì. Quindi di amarla non ti riesce, ma almeno rispettala. Lasciala libera. Come coppia siete brutti. Ognuno per conto suo tornerete bellissimi. Tornerete affascinanti. Tornerete ad essere persone. Poi mi dici che il sesso tra voi è perfetto, a parte che ne dubito, perché quando ci sono tutti questi non detti è ben difficile che la macchina corpo sia indipendente dall'affettività e tutto il resto. Ma ammettiamo che sia vero, perché mi pare strano, appunto, stufo come sei. Ma appunto, se fosse vero, allora vedetevi solo per quello. Vi verrà benissimo. Un'ora solo per quello, indimenticabile. C'è una dolcezza infinita in una scelta così onesta e così erotica. Adesso vi leggo una poesia di Erich Fried, poeta austriaco che ha vissuto dal 1921 al 1988. Dovette scappare a Londra da Vienna nel 1938 per sfuggire alla persecuzione nazista in quanto ebreo, e trovò la sua nuova vita, una bella vita, a Londra. La poesia si intitola Come ti si dovrebbe baciare. E non è bellissima, non quanto l'altra, la sua più conosciuta, che vi ho letto altre volte, Dice l'amore. Molti di voi la ricorderanno, beh, ve la rileggo. È assurdo, dice la ragione. È quel che è, dice l'amore. È infelicità, dice il calcolo. Non è altro che dolore, dice la paura. È vano, dice il giudizio. È quel che è, dice l'amore. È ridicolo, dice l'orgoglio. È avventato, dice la prudenza. È impossibile, dice l'esperienza. È quel che è, dice l'amore. Questa seconda poesia che ora vi leggerò, invece, ve la leggo perché sembra il seguito dell'altra. Quando ormai l'amore fuori da ogni regola è nel suo compimento e già si intravede un addio. Qui il poeta, più che cantare, ragiona. Si sforza di amarla col pensiero anche quando lei se ne sarà andata. Ma che fatica! E i versi ne risentono. Ecco Come ti si dovrebbe baciare, del poeta austriaco Erich Fried. Quando ti bacio, non è solo la tua bocca, non è solo il tuo ombelico, non è solo il tuo grembo che bacio. Io bacio anche le tue domande, i tuoi desideri, bacio il tuo riflettere, i tuoi dubbi, il tuo coraggio, il tuo amore per me e la tua libertà da me, il tuo piede che è giunto qui e che di nuovo se ne va. Io bacio te così come sei e come sarai, domani e oltre, e quando il mio tempo sarà trascorso. Oddio, adesso che l'ho letta mi è sembrata bellissima. Un'ascoltatrice, Irina Domenici, ha mandato una bella lettera che vi voglio leggere per intero. Alcune notti fa, dopo due lunghi mesi di caldo torrido, finalmente in città si scatena l'agognato temporale, annunciato da lampi, saette sul mare e in lontananza. Adoro l'inverno e i suoi temporali. Ne pregustavo l'arrivo e mi godevo quello spettacolo di luce e rumori in terrazza. Ai primi goccioloni di traverso decido di andare a letto. Stavo per spegnere le luci quando, nel silenzio, con un megafono, a volume altissimo, una voce d'uomo comincia a cantare «Ritornerai, lo so, ritornerai», eccetera. Con una voce bellissima. Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me. Mi affaccio, voglio capire da dove viene quella luce, dal suono metallico e rimbombante, ma bellissima e calda. E vedo la solita pattuglia, a un distributore di benzina, che spesso si acquatta nell'ombra lì, nottetempo, per beccare senza casco. E che avrà finito il servizio, perché nell'arco di un minuto mette in moto. Aziona la sirena, due o tre colpi distanziati, e poi si allontana, molto lentamente, col lampeggiatore acceso. E la voce riprende a cantare. Ritornerai, lo so, ritornerai. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai. Incredibile, era uno dei poliziotti che cantava al microfono dall'auto di servizio. Sono andata a letto un po' commossa. Mi piace pensare che forse la bella a cui il poliziotto aveva dedicato queste strofe abiti in zona, e mi auguro che lei abbia raccolto il messaggio. Lo abbraccerei, quel poliziotto. Beh, intanto lo stai abbracciando con questa lettera. Grazie di questo squarcio comico romantico che ci hai offerto. L'unico commento che possiamo fare è la canzone che il poliziotto innamorato cantava al megafono e che a nostra volta ti offriamo con Alessandro Chiappini e Antonella Migliaccio, nell'esecuzione di Bruno Lauzi e di Franco Battiato. Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ritroverai le stesse cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sempre, e riderai. Quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, ti scrivo da quella terra senza orizzonti che è Milano, dove abito da 25 anni, dopo aver abbandonato Trieste e i suoi panorami al tramonto per dei banali panorami lavorativi. Lì abitavo sotto il faro della Vittoria, meraviglioso fallo mussoliniano che guarda verso il castello di Miramare. Quindi capisco perché ti sei rifugiata a Finisterre. Trieste è la fine della terra e l'inizio di un'altra, sicuramente. Ti scrivo perché questa mattina ti ho ascoltata e mi è sembrato parlassi a me, all'Ernesto che è dentro di me, a me bambino, mezzo triestino e mezzo francese, perché mio padre era un esule di Lussino e mia madre è di Nizza. Oggi parli di Saba, della libreria, e sotto ci metti Ma liberté, quella meravigliosa poesia di Giorgio Mustachi, cantata però da Serge Reggiani. Quel disco me lo ricordo dalla mia infanzia. È la mia colonna sonora, il mio inno. Mi ha fatto ritornare a casa, bambino. E mi sono ricordato che quel viaggio da Trieste fino a Milano lo faccio ogni mattina, appena prima di svegliarmi. Un mare di affetto. Paolo. Grazie Paolo. La tua lettera è tra le più belle che siano arrivate e nessun altro mezzo come la radio è capace di snidare le nostalgie e di creare una intimità fuggevole e totale per un istante, tra sconosciuti, senza l'ingombro delle immagini che limitano la percezione e impediscono il fantastico dandogli una forma. Sere fa, a Destini Incrociati su Radio 24, ascoltavo la storia di Charlie Chaplin e della persecuzione del turpe McCarthy, il quale trovava che Charlot fosse un po' troppo comunista e che nel pieno dell'orgoglio della nazione il simbolo dell'America fosse diventato un vagabondo con le scarpe troppo lunghe e sempre inseguito dai poliziotti o sfruttato nel lavoro, finché riuscirono a cacciarlo dall'America. Ho spento la luce e al buio mi sono guardata il film, che le parole erano uguali per tutti, ma questo film è diverso per ognuno di noi che ascoltava. Cara Barbara, a costo di rendermi odiosa da subito, devo farti una premessa. Io sono molto bella. Il mio aspetto fisico ha quei tratti che fanno esclamare «Dovresti fare la modella!» oppure «Dovresti lavorare in televisione!» Per mia fortuna, ho invece perseguito le mie passioni fino a trasformarle in un gratificante lavoro culturale. 3 anni fa, proprio sul lavoro, conosco lui. Intelligente, affascinante, con un lavoro di reporter nel sociale. La passione fra noi è stata immediata, interessi condivisi, affinità e un'intesa sessuale perfetta. Il fatto che lui fosse sposato e con 2 figlie piccole costituiva tutt'altro che un problema per me, che non ho mai subito la seduzione della favola borghese del matrimonio. Mai avuta l'intenzione di strapparlo dalla sua dimensione familiare o tantomeno di sostituirmi a sua moglie. Eppure non è bastato. Una sera, senza preavviso, mi vedo scaricare addosso l'intero kit di pronto intervento da pericolo amante. Gli è bastato fraintendere un mio SMS per sfoderare il più trito cliché. Le responsabilità, il non farsi illusioni, il mettere le cose in chiaro e via banalizzando. Una doccia fredda. Con freddezza mi limito a chiarire l'equivoco e decido di non cercarlo più. È lui a farlo, dopo qualche tempo. Continuo ad evitarlo e lui continua a cercarmi. Nelle sue telefonate non c'è più alcun accenno a ciò che abbiamo condiviso, solo un appello veemente ai sensi. Non fa che dirmi quanto mi desideri e quanto non riesca a starmi lontano. La nostra affinità intellettuale e le nostre passioni in comune hanno sempre meno posto nei suoi discorsi. È a quel punto che io commetto un errore. Decido di essere cinica. Consapevole che la stima verso di lui va scemando, mi dico che sì. Dopotutto è un peccato rinunciare a quei momenti di intimità fisica così appagante, soprattutto ora che saranno svincolati dal resto. Purtroppo non ha funzionato. Oscillo in una strana schizofrenia. Se assaporo in maniera spensierata i nostri rari momenti insieme, mi sorprendo a pensare a lui con rancore per il tempo in cui siamo lontani. Perché sto permettendo a quest'uomo ciò che non ho permesso a tutti gli altri? Cioè di considerarmi solo per il mio aspetto fisico. Perché mi ostino a interessarmi a ciò che fa e a leggere tutti gli articoli che pubblica, pur sapendo che lui non si degna di leggere i miei? Perché non riesco ad accettare che in tutte le persone possano coabitare grandezza e meschinità? Sono arrabbiata con me stessa. Tu scrivi, per me, che fosse sposato con 2 figlie piccole non costituiva un problema. Magari per lui sì, però, visto che lui ha una moglie e 2 figlie piccole. E comunque tu sei fritta. Sei entrata nel sortilegio dello sposato, per cui il matrimonio è un eterno tradimento. E io non capirò mai come possiate stare, voi, ragazze di ogni tempo, con uomini così meschini e così scontati. Ma non c'è spiegazione. Ho parlato infatti di sortilegio. Qui lo psicologo non basta. Qui ci vuole padre Amort. Ci vuole l'esorcista. Il fatto che tu sia bella e intelligente, credimi, è la regola, perché il cannibale sceglie con giudizio, mica si mangia una preda scadente, si mangia il meglio, perché per essere considerata brutta e stupida basta la moglie, che magari è bella, anche lei, e seducente, ma lui non se ne accorge più, ormai lei è lì, tutti i giorni, che noia, non la vuole come compagna di gioco, lui deve giocare sempre fuori, deve giocare alle sue spalle. Chi è incapace d'amore, chi si sposa per obbligo sociale e segue la lettera questo schema mediocre. Comunque tu sei entrata nella mentalità dell'amante, sei entrata nella frustrazione senza premio, condannata a odiare sordamente quando lui non c'è e poi aspettandoti quando vi vedete dalla presenza ogni volta lo stesso miracolo che non viene. E il miracolo che ti aspetti è che lo sposato non ti tratti più come una macchina da letto e che si accorga di te come persona. Sì, se n'è accorto all'inizio, ma era un trucco da cacciatore. Adesso i giochi sono chiari. Tu sei un diversivo che lo aiuta a sostenere un matrimonio che lo annoia, con una donna dalla quale non sa più farsi sorprendere e che spero vivamente sorprenda qualcun altro e che lui sia intanto, mentre parliamo, solennemente cornuto. Certo, il tuo non è solo masochismo, non è solo sortilegio, è anche orgoglio. Come? Non riesco ad affascinarlo fino in fondo. Come? Continua a resistermi? E ti illudi, e ti illudi, e la vita passa, e questa esperienza ti involgarisce, ti deruba, ti sciupa, e quando finirà sarai una convalescente malridotta, disseccata e amareggiata, e perderai altro tempo a guarire. Tempo, tempo. Oppure goditi la clandestinità, lo squallore eccitante delle camere d'albergo, perché il sesso di nascosto ha questo di buono, ha il sapore del proibito, è molto erotico. Però se non ci riesci, se ti umilia, se borbotti, allora lascialo subito, come dicono si smetta di fumare. Si butta il pacchetto dal finestrino e non ci si pensa più. Un giorno qui dalla radio ho letto la storia di San Francesco il Soldano, una favola piena di ironia e di letizia, quando il santo scopre, nel suo viaggio in Terra Santa, che Dio è uno, comunque lo si chiami, e è andato in Terra Santa proprio per testimoniare la fratellanza mistica fra cristianesimo e Islam. E quando lui è ad Amietta, Dio continua a parlargli, ma lui non lo capisce, perché gli parla in arabo. E poi la sua parola gli diventerà chiara, perché lui la tradurrà attraverso la lingua degli uccelli, che capisce benissimo. Beh, e questa storia va a finire proprio nelle orecchie di Riccardo e Gigliola, che sono a Istanbul, mentre ascoltano la voce di Muezzin sotto un minareto. Quindi grazie Riccardo, grazie radio, non intesa qui solo come Radio 24, ma come il mezzo più arcaico, più immaginoso, e io credo eterno. La guardiana del faro. You are my sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. Ed eccolo, avvolto come Linus dalla sua coperta, dalla musica di You Are My Sister di Anthony and Johnson, arriva Simon and the Stars. Colui che, dopo aver studiato per tanto tempo, con tutto che sia giovane, ma sono studi di molti anni, gli astri, e ve ne parlato a proposito di grandi eventi della storia, poi finalmente Simon è sceso fino a noi e ci fa l'oroscopo. Ha cominciato nella sua pagina Facebook, Simon and the Stars, e poi a scriverne sulla rivista Glamour. Poi è venuto pure da noi. Ciò di cui lo ringraziamo, un uomo dall'identità misteriosa ma dalla parola chiara. Buongiorno Simon. Ciao Barbara, buongiorno. Grazie per aver accettato questa settimana di dire cosa succederà a noi poveracci che dipendiamo dalle stelle. Ho visto che Simon and Stars su Facebook ha superato i 5.000 followers. Sì, è una cosa incredibile. No, di la verità, ti sei montato la testa. No, giuro. Perché tu un po' sempre hai avuto questa tendenza. Anzi, fin da quando facevi l'ortolano, dimmi. Mi sono impaurito, altro che montato la testa. Ti sei impaurito. Sono tantissimi. E quindi Simon, che cosa grava sulla nostra testa? Che cosa ci aspetti? Io taccio e allora, lascio che tu ci ammaestri. Oggi facciamo gli oroscopi dell'ultimo quarto di luna, perché la settimana scorsa abbiamo parlato della luna piena che in qualche modo ci porta a una rivelazione, un'illuminazione, e la luna al quarto, quindi nella fase calante, ci pone di fronte ad una sfida che ci richiama a mettere in pratica quello che abbiamo in qualche modo capito in occasione della luna piena. Si dice che il quarto di luna sia la stessa spada con una nuova elsa, quindi in qualche modo il potere è sempre il nostro, ma abbiamo un altro modo di controllarlo e di indirizzarlo. E vediamo un po' l'effetto del quarto di luna segno per segno. Iniziando dall'Ariete, il cui tema in questo periodo è trovare un giusto compromesso tra caos e ordine, e il quarto di luna indica all'Ariete di cominciare proprio dalla casa, con degli abbellimenti, degli aggiustamenti, per rifondare, diciamo, un nuovo senso di sicurezza nel suo ambiente domestico. E non escludo che l'Ariete, che è un segno molto indipendente, in questo periodo possa anche ritrovare un certo desiderio di convivenza. Per quanto riguarda il Toro, invece, il tema di questo periodo è il dialogo, il riuscire ad esprimersi liberamente. Quindi il suggerimento della Luna è: nell'individuare le persone che fanno parte più strettamente della vostra vita, chiedetevi con chi riuscite ad essere veramente voi stessi, con chi riuscite veramente a dialogare senza maschere. Per quanto riguarda i gemelli, il tema di questo periodo è sempre il selezionare tra le mille cose che fanno parte della loro vita e in qualche modo individuare quelle più utili da sviluppare. In questo momento la Luna indica loro di cercare di selezionarle in base a quello che veramente è il loro amore per le cose, quelle che veramente gli consentono maggiormente di esprimere se stessi. Per quanto riguarda il Cancro, la Luna all'ultimo quarto cade proprio nel loro segno, quindi è una Luna che riguarda profondamente la personalità e riguarda in questo caso la sicurezza personale e l'autostima. Il Cancro dovrebbe cercare di trovare una sicurezza personale in se stesso e non appoggiarsi alle abitudini, a quello che già conosce, e dovrebbe diventare un po' più spregiudicato, come già dicevamo la volta scorsa. Il Cancro ha anche il transito di Giove che porta grandissima fortuna, però per poterne giovare al meglio si deve muovere. Per il Leone la sfida della Luna riguarda il fatto di trovare il proprio senso di identità e, se vogliamo, anche la sua regalità anche nei momenti in cui non è al centro della ribalta, come questo periodo. Non occorre essere osannati dai sudditi per sentirsi re della foresta. Per il Leone ci saranno momenti migliori alla metà del prossimo anno, in questo è un momento un po' di allenamento in cui deve imparare il senso anche dell'umiltà, se vogliamo. Per quanto riguarda la Vergine, l'insegnamento della Luna è di non trascurare le amicizie, soprattutto per le Vergini che in questo momento stanno vivendo una relazione in modo molto profondo. Occorre però non dimenticare le proprie amicizie, le proprie, non quelle del partner. Per quanto riguarda la Bilancia, un discorso un po' a parte, perché la Bilancia è il segno del mese e sta per riavere il proprio ritorno solare, quindi il compleanno, il passaggio del Sole sulla stessa posizione che aveva la nascita, che è un momento di grande importanza perché inizia un nuovo ciclo. Nuovo ciclo che per la Bilancia porterà finalmente il consolidamento dei risultati di una serie di progetti che sono stati iniziati nell'ultimo anno e mezzo e che sembrano arenati. E l'indicazione della Luna è proprio quella, cioè di non smettere mai di credere nelle proprie potenzialità anche nei momenti in cui le vostre cose sembrano essersi bloccate. Per quanto riguarda lo Scorpione è in una fase estremamente delicata, è come se stesse rinascendo, nella maggior parte dei casi rinascendo all'estero. Infatti molti Scorpioni stanno meditando dei trasferimenti, stanno iniziando nuove attività che li portino al di fuori dei confini nazionali, però in qualche modo a questo corrisponde, se vogliamo, un abbandono di alcune cose, di alcuni vecchi schemi che li tengono legati a casa. Per cui è importante guardare più alla rinascita che è in atto piuttosto che alla morte di alcune piccole cose che sono diventate ormai obsolete. Per quanto riguarda il Sagittario, l'insegnamento della Luna è che la sua proverbiale generosità e il suo altruismo devono essere, diciamo, conciliate con un po' di senso del proprio valore, quindi occorre che il Sagittario non si faccia fregare, in parole povere. Ricordiamo che viene da un anno di opposizione con Giove che l'ha molto affaticato e che soprattutto gli ha reso difficile riappropriarsi delle cose che gli appartengono di pieno diritto. Il Capricorno è un segno che in quest'ultimo periodo ha proprio la sensazione di essere caduto in una vita sbagliata, è in atto una trasformazione molto profonda che lo porterà a essere molto più al centro delle proprie cose e a trovare quelli che sono realmente i suoi talenti più profondi. In questo periodo, diciamo che è un po' in mezzo ad una tempesta, il suggerimento della Luna è quello di individuare fra le persone che vi circondano quelle che sono realmente persone alleate, quelle che possono comprendere la trasformazione che state passando e in qualche modo anche sostenerla e aiutarla. L'Acquario probabilmente in questo momento sta facendo le valigie per partire sulla Luna, è pieno di grandissimi progetti, di grandissimi ideali, però deve imparare a non trascurare l'importanza delle piccole cose, l'importanza della routine, la cura per i dettagli. E l'Acquario è portato a pensare troppo, molto in grande, però questo, diciamo, non può trascurare l'importanza di fondamenta solide. Per quanto riguarda i pesci, questo quarto di luna finale cade proprio nel loro segno e in qualche modo ha a che fare con la loro nuova immagine che sta emergendo e di cui hanno avuto una visione più chiara in occasione della luna piena. Necessariamente stanno cambiando pelle, stanno diventando qualcosa di diverso. Occorre in qualche modo prenderne atto, e questo è l'insegnamento dell'ultimo quarto di luna: riconoscere cosa ormai è diventato obsoleto ed eliminare qualche scoria che, rispetto al carattere assolutamente aperto e spirituale dei pesci, può essere a volte difficile porre dei punti, però in questo momento vi è di grandissima importanza. Down. So similar over the years, the way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Antonella Migliaccio.